Cantine di Franciacorta. Un saluto da Borgonato di Cortefranca e dalla Berlucchi, 5 milioni di bottiglie all'anno, azienda nata 50 anni fa dall'incontro fortunato tra Guido Berlucchi e Franco Ziliani, considerato il padre del Franciacorta, primo a produrre ed etichettare con il nome Franciacorta le ormai famose bollicine. Azienda con tanta tecnologia che però tiene a preservare la tradizione. Cristina Ziliani, figlia del cofondatore. Primo punto da sottolineare per il mantenimento di ciò che è la tradizione è la vendemmia. In Franciacorta si può vendemmiare solo a mano. La delicatezza della mano dell'uomo nella raccolta di questo grappolo è fondamentale per conservare il grappolo integro. Oggi con queste presse che si chiamano cocard noi otteniamo mosti che hanno un profumo, una limpidezza, una qualità assolutamente eccellenti. Alla prossima tappa! Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.